Capitolo 13. Soccorso a un ferito. Lasciata la sala riunioni della parrocchia, Pollyanna non era andata verso casa, ma aveva preso la direzione di Pendleton Hill per essere il suo giorno di riposo, così almeno considerava il giorno in cui non aveva lezione di cucito né pratica di cucina, non era stato affatto rilassante, tant'è che decise che niente le avrebbe fatto meglio di una passeggiata nel verde riposante della collina di Pendleton. Salì, quindi, verso la cima, con passo deciso, nonostante il sole pomeridiano le scottasse le spalle. Non dovrò essere a casa che per le 5:30, pensava, ed è molto bello passeggiare nel bosco, anche se è un po' faticoso arrivarci. Pollyanna aveva già avuto modo di ammirare la bellezza di quel bosco, ma ora le sembrava ancora più bello, nonostante la preoccupazione che si portava dentro per la brutta notizia che doveva comunicare a Jimmy Bean il giorno successivo. Vorrei che tutte quelle signore che parlavano tanto fossero qua, si disse Pollyanna, osservando incantata la luce del sole che filtrava tra gli alberi e l'azzurro del cielo che si intravedeva sopra le cime. Se fossero qui, sono sicura che cambierebbero idea e farebbero di Jimmy il loro bambino da allevare senza tante discussioni. Concluse, sicura di essere nel giusto, anche se non sapeva spiegarsi il perché. Improvvisamente Pollyanna si fermò e si mise in ascolto. Un cane abbaiava a poca distanza da lei e un attimo dopo se lo vide correre incontro dal sentiero. «Ciao, cagnolino!» disse Pollyanna guardando nella direzione da dove l'animale era arrivato. Aveva già visto quel cane, ne era sicura. Doveva essere stato insieme con l'uomo, con quel signor Pendleton. E continuava a puntare gli occhi verso quella parte nella speranza di vederlo apparire. Continuò a guardare per qualche minuto, ma nessuno apparve. Rivolse allora la sua attenzione al cane. Quell'animale, come anche Pollyanna poteva notare, si comportava in modo strano. Continuava ad abbaiare, ma i suoi latrati erano brevi e acuti, come se volessero richiamare l'attenzione su qualcosa in particolare. Inoltre correva avanti e indietro lungo il sentiero. Pollyanna, che l'aveva seguito, si trovò su un viottolo laterale che il cane infilò di corsa, salvo tornare di lì a poco mugolando e abbaiando. «Ma questo non è il sentiero principale», disse Pollyanna, tornando per la sua strada. A quel punto però la bestiola sembrava impazzita. Correva avanti e indietro tra Pollyanna e il sentiero secondario, abbaiando e guaendo penosamente. Ogni fremito del suo corpo e ogni sguardo dei suoi grandi occhi scuri e umidi esprimevano con tanta chiarezza una richiesta di aiuto, che alla fine Pollyanna lasciò il sentiero principale e lo seguì. Il cane correva agitatissimo davanti a lei e non ci volle molto per scoprire perché. Ai piedi di un grosso masso vide qualcuno disteso a terra, immobile. Un rametto secco crepitò sotto le scarpe di Pollyanna e l'uomo volse il capo. Con un grido la ragazzina gli corse accanto. «Signor Pendleton, oh, è ferito!» «Ferito io? Ah, neanche per sogno, mi sto godendo il sole!» disse con irritato sarcasmo. «Ascolta, vieni qui, sei capace di darmi una mano? Hai un po' di buon senso?» Pollyanna fece un profondo respiro e, come era sua abitudine, si impegnò a rispondere a tutte le domande una per una. «Io, signor Pendleton, non so fare granché, ma le signore dell'assistenza, tranne la signora Rawson, dicevano che avevo sempre molto buon senso. L'ho sentito una volta, anche se non se ne sono accorte.» L'uomo fece un sorriso un po' forzato. «Scusami, piccola, sono certo che ne hai di buon senso. È tutta colpa di questa mia stupida gamba. Ascoltami bene.» Si interruppe e con una certa difficoltà infilò la mano in una tasca dei pantaloni. Ne estrasse un mazzo di chiavi e ne scelse una che strinse tra pollice e indice. Proseguendo dritto lungo questo sentiero, a 5 minuti di strada c'è la mia casa. Questa chiave apre la porta dell'ingresso laterale, quello di servizio. Pensi di poterla individuare? Oh sì, signore, anche in casa di mia zia ce n'è una, proprio sotto alla veranda. Là una volta sono rimasta a dormire sul tetto, ma non molto. Che cosa? Quale tetto? Insomma, quando entri in casa, attraversa l'ingresso e prosegui per il corridoio fino alla porta che c'è in fondo. Entra nella stanza. Sulla grande scrivania c'è il telefono. Sai usare il telefono? Oh, sì, certo, signore. Una volta, quando zia Polly... Lascia stare, zia Polly, ora! Tagliò corto l'uomo, tentando di muoversi. Cerca il numero di telefono del dottor Chilton, che deve essere segnato su un elenco da qualche parte. L'elenco dovrebbe essere appeso a un gancio su un lato della scrivania. Ma probabilmente non ci sarà. Immagino che tu sappia riconoscere un elenco telefonico se lo vedi. Oh, certo, signore, ce l'ha anche zia Polly. Quando avrai trovato il numero, informa il dottor Chilton che John Pendleton si trova ai piedi della collina di Pendleton con una gamba rotta e digli di venire subito con una barella e due uomini. Al resto penserà lui. Digli di seguire il sentiero che parte da casa mia. Una gamba rotta? Oh, signor Pendleton, che cosa terribile! Disse Pollyanna veramente dispiaciuta. Sono così contenta di essere venuta. Posso fare qualcosa? Sì, puoi, ma evidentemente non vuoi. Perché non mi fai il favore che ti ho chiesto e la smetti di parlare tanto? Borbottò l'uomo con un filo di voce e una smorfia di dolore sul viso. A Pollyanna non occorsero altre parole e corse via. Non c'era tempo per ammirare le cime degli alberi illuminate dal sole. Teneva gli occhi a terra per non inciampare in qualche ramo secco o in qualche sasso sporgente. Non le ci volle molto per arrivare alla casa. L'aveva vista un'altra volta, anche se non così da vicino. Restò impressionata dalla sua imponenza, dal colonnato della veranda e dall'ingresso austero. Senza perdere tempo, si precipitò attraverso il grande portico, molto trascurato, e raggiunse la porta di servizio. Aveva tenuto la chiave talmente stretta che le si erano intorpidite le dita. E ora faceva fatica a far scattare la pesante serratura. Alla fine però ci riuscì e la massiccia porta di legno intagliato girò sui cardini. Pollyanna prese fiato. Nonostante la fretta, non poté fare a meno di guardarsi intorno. Un po' disorientata nel trovarsi in quell'ingresso enorme e in penombra, nella testa le turbinavano mille pensieri. Quella era la casa di John Pendleton, la casa del mistero, la casa dove poteva entrare solamente il suo padrone. La casa in cui da qualche parte era nascosto uno scheletro. Eppure lei, Pollyanna, si trovava ora lì dentro, tutta sola in quelle stanze cupe, con l'incarico di informare il medico che il padrone di casa giaceva. Oh, senza guardare né a destra né a sinistra, percorse svelta l'ingresso, fino in fondo al corridoio dove si trovava la porta che le era stata indicata, e l'aprì. La stanza era ampia e oscurata da grandi tendaggi, simili a quelli dell'ingresso. Attraverso una finestra a occidente filtrava un raggio dorato che si allungava sul pavimento e faceva anche rilucere gli ottoni del camino e le nichelature dell'apparecchio telefonico posto sul grande scrittoio in mezzo alla stanza. Subito Pollyanna si affrettò in punta di piedi in quella direzione. L'elenco con i numeri telefonici più importanti non era al suo posto, come il signor Pendleton stesso aveva previsto, ma per terra. Pollyanna lo raccolse immediatamente e compose il numero, anche se la mano le tremava un po'. Ebbe subito risposta dal dottor Chilton stesso, al quale comunicò il messaggio e rispondendo poi alle precise domande che le poneva. Terminata la comunicazione, Pollyanna mise giù la cornetta con un lungo sospiro di sollievo. Gettò appena un'occhiata in giro, quel tanto che le bastò per cogliere una confusa visione di pesanti tendaggi, di pareti coperte di libri, di sporcizia sul pavimento, di una scrivania ingombra all'inverosimile e di tante porte chiuse, una delle quali probabilmente nascondeva lo scheletro. E dappertutto polvere, tanta polvere. Infine si ritrovò in fondo al corridoio. Attraversò l'ingresso e uscì dalla porta per la quale era entrata e che aveva lasciato socchiusa. In un tempo che sembrò brevissimo persino al signor Pendleton, che la stava aspettando, Pollyanna fu di ritorno nel bosco. «Come mai sei già qui? Non sei riuscita a entrare?» «Oh!» Pollyanna spalancò tanto d'occhi. «Certo che sono riuscita! È stato molto facile, non ci è voluto molto! Il dottore sarà qui appena possibile con gli uomini e tutto quanto!» Ha capito benissimo il posto e così non l'ho aspettato per guidarlo fin qui. Volevo tornare al più presto da lei. Veramente? Disse l'uomo con un sorriso. Beh, quando è così non posso proprio dire che tu abbia molto buon gusto. Dovresti trovarti qualche compagno più gradevole. Perché dice questo? Per il fatto che è sempre così scorbutico? Apprezzo la tua franchezza, sì, proprio per questo. Pollyanna rise, leggermente imbarazzata. Oh, ma lei è scorbutico soltanto fuori, dentro no? Ah, davvero? E come lo sai? Chiese l'uomo cercando di muovere il capo senza spostare il resto del corpo. Oh, lo si capisce da molte cose, per esempio da come tratta il suo cane, disse indicando la mano scarna che l'uomo teneva sulla testa della bestia accovacciata vicino a lui. È strano come i cani e i gatti riescano a rivelare il carattere del loro padrone più delle persone che gli stanno intorno, non crede? Senta, vuole che le sostenga un po' la testa? Chiese poi d'un tratto. L'uomo fece parecchie smorfie e si lamentò un poco mentre la manovra veniva effettuata, ma alla fine trovò che le ginocchia di Pollyanna facevano da cuscino assai meglio del sasso sul quale aveva tenuto appoggiata la testa fino a quel momento. Adesso va molto meglio, disse con un filo di voce. Restò così in silenzio per qualche tempo. Pollyanna lo guardava chiedendosi se per caso non dormisse, ma poi si accorse che anche con gli occhi chiusi teneva le labbra strette per non lasciarsi sfuggire alcun lamento. Pollyanna osservava con compassione quel grande corpo steso a terra, impotente e sofferente. L'uomo teneva una mano con le dita strette a pugno per resistere meglio al dolore, mentre l'altra era immobile, posata sulla testa del cane, il quale, vigile più che mai, se ne stava accucciato accanto al padrone. Il tempo scorreva lentamente, un minuto dopo l'altro. Piano piano il sole tramontò e le ombre si allungarono sotto gli alberi. Pollyanna, anch'essa immobile, non sembrava nemmeno respirare, tale era la sua preoccupata attesa. Un uccellino si posò senza timore a un passo da lei, mentre uno scoiattolo faceva ondeggiare un lungo ramo che pendeva lì vicino. Improvvisamente il cane drizzò le orecchie con un guaito soffocato, poi si mise ad abbaiare. Pollyanna udì le voci e subito dopo apparvero tre figure che reggevano una barella e altre cose. Il più alto dei tre, un uomo dall'aspetto molto distinto che la bambina conosceva di vista come il dottor Chilton, si avvicinò sorridendo. «Oh, abbiamo qui una piccola infermiera?» domandò gentile. «Oh no, signore», disse Pollyanna. Gli ho soltanto tenuto la testa, non potevo fare altro, ma sono contenta di essere stata qua. Oh, anch'io, disse il dottore, occupandosi immediatamente del ferito. Capitolo 14. Una bambina fuori del comune. Pollyanna quella sera arrivò a casa in ritardo per la cena, ma fortunatamente se la cavò senza rimproveri. Nancy l'aspettava sulla porta. Ah, eccoti finalmente, disse con un sospiro di sollievo. Sono le 6:30 passate. Lo so, rispose Pollyanna, un po' affannata, ma non è colpa mia, davvero non è colpa mia, e nemmeno zia Polly potrà avere niente da ridire. Oh, non avrà certo niente da ridire, disse Nancy soddisfatta, per il semplice motivo che non è in casa. Non è in casa? Disse Pollyanna con apprensione. Non vorrei dire che la colpa è mia. Nella mente di Pollyanna in quel momento si affollavano molti pensieri e qualche rimorso per il suo comportamento di quella mattina, per aver portato in casa quel ragazzino oltre al cane e al gatto, e poi per tutti i suoi fastidiosi contenta, contenta, contenta, e per aver nominato spesso papà, nonostante la precisa proibizione, parole che le sfuggivano di continuo, nonostante i suoi sforzi. Se n'è andata per colpa mia? Oh no, tu non c'entri, borbottò Nancy. Una sua cugina di Boston è morta improvvisamente e così è dovuta partire. Tua zia ha ricevuto un telegramma subito dopo che è riuscita, questo pomeriggio, e non sarà di ritorno che fra 3 giorni. Ora penso che possiamo essere contente e darci la pazza gioia. Penseremo alla casa da sole e tutto andrà benone, sicuro che sarà così. Pollyanna fissò Nancy turbata. Oh Nancy, come fai a essere così contenta quando c'è un funerale? Oh, ma non era per il funerale che ero contenta, Pollyanna, era... Nancy si arrestò di colpo con un lampo malizioso negli occhi. Ma come, Pollyanna? Non sei stata tu a insegnarmi il gioco? Disse, cercando di assumere un tono di rimprovero. Pollyanna si rabbuiò in volto. È più forte di me, Nancy, disse scuotendo la testa. Con certe cose è impossibile fare il gioco. E un funerale è una di quelle. Non c'è niente in un funerale di cui si possa essere contenti. Nancy ridacchiò, sforzandosi tuttavia di sembrare seria. Possiamo almeno essere contente che non ci riguardi, disse. Ma Pollyanna non la udì. Aveva iniziato a raccontare dell'incidente del signor Pendleton e un attimo dopo Nancy stava a bocca spalancata senza perdere una sola parola. Il pomeriggio seguente Pollyanna incontrò Jimmy Bean al posto stabilito. Come era da prevedere, il bambino restò molto deluso nell'apprendere che le signore dell'assistenza preferivano fare bella figura con le missioni in terre lontane piuttosto che accoglierlo in casa. Forse, sospirò, è del tutto normale. Le cose che non si conoscono sembrano sempre migliori di quelle che abbiamo sotto gli occhi. Così spero che anch'io potrò essere considerato importante da gente lontana da qui. Non si può mai dire. Non sarebbe fantastico se venissero a cercare me da un paese lontano? Pollyanna accolse quelle parole con entusiasmo. Un'idea straordinaria le era balenata nella mente. Certo, sicuro. È proprio così, Jimmy. Scriverò alle mie signore dell'assistenza. Non sono lontane come l'India, sono soltanto nell'ovest, da dove sono venuta io, ma è lontano e per loro, che si occupano di cose lontane, dovrebbe essere la stessa cosa. Il volto di Jimmy si illuminò. Pensi davvero che mi accoglieranno? Domandò incredulo. Certo. Penso che tu risulti abbastanza lontano per far fare una bella figura nel rapporto sulle missioni. Abbi fiducia, scriverò una bella lettera proprio alla signora White. No, anzi, scriverò alla signora Jones. La signora White è quella che raccoglie più denaro, ma la signora Jones è quella che ne dona di più e se ci pensi è un po' ridicolo. Comunque, sono certa che qualcuna ti prenderà. Speriamo, ma non dimenticare di dire che lavorerò per il mio mantenimento. Insistette ancora una volta il ragazzo. Non sono un mendicante, gli affari sono affari anche per le signore dell'assistenza, penso. Esitò un poco, quindi aggiunse: Per il momento continuerò a stare dove sono finché non salta fuori una risposta positiva. Certo, assentì Pollyanna seria, così saprò dove trovarti. Ti prenderanno certamente, sono sicura che sei abbastanza lontano per loro. Pensi che per zia Polly io fossi un po' come una bambina indiana? Chiese d'un tratto. Sei proprio un tipo strano, disse Jimmy mentre se ne andava. Era passata circa una settimana dall'incidente nel bosco di Pendleton che Pollyanna una mattina domandò alla zia Polly: Zia Polly, ti dispiacerebbe molto se questa settimana la gelatina della signora Snow la portassi a qualcun altro? Sono sicura che per una volta la signora Snow non dispiacerebbe. Oh, povera me, Pollyanna, che cosa hai in mente stavolta? Mormorò con un sospiro la zia. Sei davvero la bambina più fuori dal comune che io conosca. Pollyanna mostrò una certa apprensione. Zia Polly, per favore, che cosa vuol dire fuori dal comune? Se uno è fuori dal comune non può essere comune, vero? Certamente no. Oh, meno male. Allora sono contenta di essere fuori dal comune, disse Pollyanna felice. Vedi, la signora White diceva che la signora Rawson era una donna molto comune e la considerava veramente orribile. Quelle due litigavano sempre. Per metterle d'accordo, papà doveva far fatica di più che non per tutto il resto delle signore, disse Pollyanna tutto d'un fiato nello sforzo di scansare alla meglio la stretta del doppio ordine, quello di suo padre di non parlare mai delle faccende della parrocchia e quello di sua zia di non nominare mai il padre in sua presenza. Va bene, s'affrettò a dire zia Polly, non senza disagio. Sei sempre la stessa Pollyanna, di qualunque cosa parli, finisci sempre col tirar fuori quelle benedette signore dell'assistenza. Sì, zia, rispose Pollyanna per nulla turbata dall'osservazione. Hai certamente ragione, ma vedi, sono loro che mi hanno allevata e basta così, Pollyanna. L'interruppe una voce gelida. Che cos'è questa storia della gelatina adesso? Oh, niente, zia Polly, davvero niente che ti dispiaccia. Dal momento che mi hai dato il permesso di portare la gelatina a lei, ho pensato che non avresti obiettato che la portassi anche a lui per una volta. Vedi, chi ha una gamba rotta non è come chi è un invalido permanente, così lui non sarà sempre come la signora Snow e lei potrà avere sempre tutte le cose che le prepariamo, tranne una volta o forse due. Lui, lei, gamba rotta? Ma di chi stai parlando, Pollyanna? Pollyanna si fece tutta seria, quindi tranquilla rispose: Ah, dimenticavo che non lo sapevi. Vedi, è accaduto mentre eri assente. È stato proprio il giorno in cui sei partita che l'ho trovato nel bosco, capisci? Ho dovuto entrare in casa sua e telefonare al dottore per chiedergli di venire e poi gli ho sorretto la testa e naturalmente dopo di allora non ho saputo più nulla. Così, quando questa mattina Nancy ha preparato la gelatina per la signora Snow, ho pensato come sarebbe gentile se potessi portarla a lui questa volta invece che alla signora Snow, soltanto per una volta. Posso, zia Polly? Sì, penso di sì, accondiscese la signorina Polly, incapace di opporsi. Chi hai detto che era? L'uomo, voglio dire, il signor Pendleton. La signorina Polly balzò quasi dalla sedia. John Pendleton? Sì, è stata Nancy a dirmi il suo nome, forse lo conosci anche tu? La signorina Polly non rispose, ma chiese: Lo conosci? Pollyanna annuì: Oh sì, ora parla sempre e sorride anche, vedi, è solo scorbutico di fuori. Vado a prendere la gelatina. Nancy aveva quasi finito di prepararla quando sono venuta qui, concluse Pollyanna, che aveva già attraversato metà della stanza. Pollyanna, aspetta! La voce della signorina Polly si fece improvvisamente molto severa. Ho cambiato idea. Preferisco che oggi la signora Snow abbia quella gelatina come al solito. Questo è tutto. Ora puoi andare. La delusione apparve sul volto di Pollyanna. Ma, zia Polly, la malattia della signora Snow durerà sempre. Lei potrà ricevere tante cose, ma lui ha solo una gamba rotta. E le gambe non durano, voglio dire, le gambe rotte. E lui l'ha rotta da un'intera settimana. Sì, lo so. Mi è stato riferito che il signor John Pendleton ha avuto un incidente, disse la signorina Polly, sempre rigida. Ma non intendo mandare la gelatina a John Pendleton, Pollyanna. Capisco. So che è ruvido di fuori, ammise Pollyanna con tristezza, e per questo motivo penso che non ti sia simpatico, ma non gli dirò che sei tu a mandargliela, gli dirò che è stata una mia idea. A me è simpatico e sarei contenta di portargli la gelatina. La signorina Polly riprese a scuotere la testa. Quindi d'un tratto si arrestò e chiese in modo stranamente tranquillo: Lui sa chi sei, Pollyanna? La bambina sospirò. Penso proprio di no, gliel'ho detto una volta, ma lui non mi chiama mai per nome, mai. Sa dove abiti? No, non gliel'ho mai detto. Allora non sa che sei mia nipote? Penso di no. Seguì un silenzio. La signorina Polly guardava Pollyanna sovrappensiero come se non la vedesse. La bambina, intanto, bilanciandosi impaziente ora su una gamba ora sull'altra, sospirava apertamente. Quindi la signorina Polly si alzò in piedi. Va bene, Pollyanna, disse infine, ancora con quella strana inflessione nella voce, così diversa dal solito. Puoi portare la gelatina, signor Pendleton, da parte tua, ma sia chiaro, non sono io a mandargliela. Stai attenta a non fargli credere che sia stata io. Sì, zia, no, zia, grazie, zia Polly, gridò Pollyanna esultante mentre correva fuori dalla stanza. Capitolo 15. Il dottor Chilton. La grande casa sembrò molto diversa a Pollyanna quando si recò a trovare il signor Pendleton. Le finestre erano spalancate. Un'anziana donna stava stendendo i panni sul retro della casa e il calesse del dottore era vicino all'ingresso posteriore. Pollyanna si diresse alla porta che ormai conosceva. Questa volta però suonò il campanello, senza che le dita fossero rigide, come quando aveva dovuto tenere stretta la chiave da infilare nella serratura. Il piccolo cane le saltò incontro, ma ci volle un po' di tempo prima che la donna, impegnata con gli abiti, venisse ad aprirle. Buongiorno, ho portato un po' di gelatina per il signor Pendleton, le disse Pollyanna. Grazie, disse la donna prendendo in mano il contenitore. Da parte di chi devo dire? E cosa hai detto che c'è dentro, gelatina? In quel momento il dottore, che stava attraversando l'ingresso, udì le parole della donna e scorse le espressioni di delusione sul volto della bambina. Si affrettò subito verso di lei. Ah, gelatina, chiese. È proprio quello che ci vuole, disse per dissipare lo sconforto della piccola. Forse ti fa piacere salutare il nostro malato, che ne dici? Oh, sì, signore, disse Pollyanna illuminandosi, mentre la donna, a un cenno del medico, fece immediatamente strada attraverso l'ingresso, sebbene sembrasse visibilmente sorpresa. Anche un giovane che era vicino alla porta, un infermiere fatto venire appositamente, domandò irritato: Ma dottore, il signor Pendleton non ha detto di non far entrare nessuno? Sì, certo, ammise il medico senza scomporsi, ma adesso gli ordini li do io e me ne assumo la responsabilità. Poi aggiunse: Lei non può saperlo, naturalmente, ma questa ragazzina aiuta a sollevare l'umore di un malato più di un'intera bottiglia di tonico, per questo l'ho fatta passare. E chi è? Il dottore esitò un istante prima di rispondere. È la nipote di una delle più note residenti di questa zona. Si chiama Pollyanna Whittier. Io non posso dire di conoscerla bene ancora, ma molti miei pazienti mi parlano ininterrottamente di lei e di questo non posso che essere contento. Il giovane infermiere sorrise. Davvero? Ah, e quali sono gli ingredienti di questo suo straordinario tonico? Il dottore scosse il capo. Non saprei. Da quello che si dice, sembra abbia sempre un insopprimibile desiderio di felicità che trasmette a tutti, una costante gioia per quello che è accaduto e per quello che accadrà. E comunque il tenore delle sue conversazioni è sempre improntato al semplice fatto di essere contenta. Questo mi viene continuamente ripetuto da tutti, in sostanza, disse infine con un sorriso ammirato mentre si dirigeva verso la porta d'ingresso. Vorrei davvero poterla prescrivere come medicina, invece di una confezione di pillole. Se al mondo ce ne fossero tante come lei, noi due potremmo cambiare mestiere o perlomeno essere molto meno necessari di quanto non siamo. Nel frattempo, Pollyanna, secondo l'ordine del dottore, Veniva accompagnata nella stanza del signor Pendleton. Mentre attraversava la grande biblioteca che si trovava in fondo all'ingresso, Pollyanna non poté fare a meno di notare che tutto appariva diverso. I libri sugli scaffali e le tende erano gli stessi, ma la sporcizia sul pavimento era sparita, la scrivania era stata riordinata e non c'era più un filo di polvere. L'elenco del telefono era appeso al suo gancio e gli ottoni del camino erano stati lucidati. Una delle tante porte misteriose era aperta e fu appunto attraverso questa che la donna la fece passare. Un attimo dopo, Pollyanna si trovò in una stanza da letto arredata sontuosamente, mentre la sua accompagnatrice diceva, con voce incerta ed esitante, «Scusi, signore, c'è qui una ragazzina che ha portato qualcosa per lei. Il dottore ha detto che potevo farla passare».